Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Il signore di Villefort aveva visto la folla, benché compatta, aprirsi al suo passaggio. Si trascinò lungo i corridoi, guidato unicamente dall'abitudine. Gettò alle spalle la toga di magistrato, giunse vacillando fino alla Corte Dauphine, dove riconobbe la sua carrozza, e si lasciò cadere sui cuscini mostrando con il dito al cocchiere la direzione del Faubourg Saint-Honoré. «Dio!» mormorava senza neppure sapere che cosa dicesse. «Dio! Dio!» E non vedeva che Dio, dietro il baratro che si era spalancato. La carrozza correva veloce, come lampo in mezzo alla notte. Villefort pensò a sua moglie. «Questa donna è diventata una delinquente perché è venuta a contatto con me», gridò rotolandosi sul raso della sua carrozza. «Io trasudo il delitto, e lei ha contratto il delitto come si contrae il tifo, come si contrae il colera, come si contrae la peste, e io la punisco. Ho osato dirle pentitevi e morite, io. Ah no, no, bisogna che questa donna viva, bisogna che questa donna si penta, che allevi mio figlio. Questi delitti commessi in casa mia e di cui la società già si preoccupa saranno dimenticati con il tempo. E se qualche nemico se ne ricordasse, ebbene, me ne farò carico io. Uno, due o tre di più, che importa? Mia moglie fuggirà portando con sé dell'oro e soprattutto portando mio figlio lontano dall'abisso in cui mi sembra che il mondo stia per cadere con me. Lei vivrà, sarà ancora felice, poiché tutto il suo amore è riposto in suo figlio, e suo figlio non la lascerà. Avrò fatto una buona azione, e questo mi alleggerisce il cuore». E il procuratore del re respirò più liberamente, come non faceva da lungo tempo. La carrozza si fermò nel cortile del palazzo Villefort, scese e si lanciò sulle scale. Corse verso la porta della camera da letto. C'era il catenaccio. Si fermò rabbrividendo. «Eloise!» gridò. «Chi c'è?» rispose la moglie con una voce che gli parve più debole del solito. «Aprite! Aprite!» gridò Villefort. «Sono io!» Ma malgrado la richiesta e il tono angoscioso con cui era stata fatta, la porta non si aprì. Villefort la sfondò con un calcio. Sulla soglia della stanza che metteva nel suo studio, la signora di Villefort era in piedi, pallida, con i lineamenti contratti e gli occhi spaventosamente fissi. «Eloise! Eloise!» disse. «Che cosa avete? Parlate!» La donna stese verso di lui la mano irrigidita e livida. «Tutto è fatto, signore», disse con un rantolo che sembrava squarciare la gola. «Che volete dunque di più?» E cadde sul tappeto. La signora di Villefort era morta. Villefort, inorridito, arretrò fino alla soglia della camera e guardò il cadavere. «Mio figlio!» gridò ad un tratto. «Dov'è mio figlio?» E si precipitò fuori dall'appartamento gridando «Edouard! Edouard!» con tale accento angoscioso che i domestici accorsero. «Il signor Edouard non è da basso, signore», disse il cameriere. «Circa mezz'ora fa è entrato nelle camere della signora, da dove non è più uscito». Un sudore glaciale imperlò la fronte di Villefort. «Presso la signora», mormorò, e tornò lentamente sui suoi passi. Dietro il cadavere la sovrapporta rialzata lasciava scorgere una parte dello studio, un pianoforte e l'estremità di un divano di seta azzurro. Villefort avanzò di tre o quattro passi e vide suo figlio coricato sul divano. Il bambino dormiva, senza dubbio, e il disgraziato ebbe un lampo di gioia indicibile. Un raggio di pura luce penetrò nell'inferno nel quale si dibatteva, fece un balzo e scavalcò il cadavere, come si fosse trattato di oltrepassare un braciere ardente. Prese il bambino fra le braccia, lo strinse, lo scosse, lo chiamò. Il bambino Non rispondeva. Portò le avide labbra sulle guancia, erano livide e gelide. Palpò le sue membra, erano irrigidite. Appoggiò la mano sul suo cuore. Non batteva più. Il bambino era morto. Un foglio piegato in quattro cadde dal petto di Edouard. Villefort raccolse il foglio e lesse avidamente. «Voi sapete che io ero una madre affettuosa. Fu per mio figlio, infatti, che mi resi colpevole. Una buona madre non parte senza suo figlio». Villefort non poteva credere ai suoi occhi né alla sua ragione. Si trascinò verso il corpo di Edouard e lo esaminò ancora una volta con la meticolosa attenzione della leonessa che guarda il leoncino morto. Quindi un gemito straziante gli sfuggì dal petto. «Dio!» gridò. «Sempre Dio!» Villefort discese la scaletta che conosciamo ed entrò nella camera di Noirtier. Questi pareva ascoltasse con tutta l'attenzione consentitagli dalla sua immobilità l'abate Busoni, calmo e freddo come al solito. «Voi qui, signore», disse Villefort. «Voi dunque comparite soltanto per scortare la morte?» Busoni si alzò e, vedendo il viso alterato del magistrato, il lampo selvaggio dei suoi occhi, capì, o credette di capire, che la scena della corte d'assise era già avvenuta. Ignorava il resto. «Venni una volta per pregare sul corpo di vostra figlia», rispose Busoni. «E oggi che cosa venite a fare?» «Vengo a dirvi che avete pagato abbastanza il vostro debito e che da questo momento pregherò Dio affinché si ritenga soddisfatto come mi ritengo io». «Mio Dio!» esclamò Villefort indietreggiando spaventato. «Questa non è la voce dell'abate Busoni!» «No!» L'abate si strappò la falsa tonsura, scosse la testa e i suoi lunghi capelli neri non più compressi ricaddero sulle spalle incorniciandogli il maschio viso. «Questo è il viso del signor Conte di Montecristo!» gridò Villefort con gli occhi stravolti. «Nemmeno, signor procuratore. Cercate meglio e più lontano». Questa voce, dove l'ho sentita per la prima volta?» «L'avete sentita per la prima volta a Marsiglia, 23 anni fa. Cercate nelle vostre carte». «Voi non siete Busoni, non siete Montecristo. Mio Dio, voi siete quel nemico nascosto, implacabile, mortale. Ho senza dubbio commesso qualche cosa contro di voi a Marsiglia. Chi siete? Chi siete dunque, mio Dio?» «Sono lo spettro di un disgraziato che avete sepolto nelle carceri del castello d'If. A questo spettro, uscito finalmente dalla tomba, Dio ha messo la maschera del conte di Montecristo e lo ha ricoperto di diamanti e d'oro affinché poteste riconoscerlo soltanto oggi». «Oh, ma io ti riconosco! Disse il procuratore del re. «Tu sei...» «Io sono Edmond Dantès». «Tu sei Edmond Dantès!» gridò il procuratore afferrando il conte per il polso. Allora vieni! E lo trascinò per la scala. Osserva il Mondantes! Disse mostrando al conte il cadavere di sua moglie e di suo figlio. Osserva! Guarda! Sei ben vendicato! Montecristo impallidì a quello spaventoso spettacolo. Comprese di aver oltrepassato i diritti della vendetta. Comprese che non poteva più dire «Dio è per me e con me». Si gettò con un sentimento d'angoscia inesprimibile sul corpo del bimbo. Gli riaprì gli occhi, gli toccò il polso e si lanciò con lui nella camera di Valentin, chiudendola a doppio giro. «Mio figlio!» gridò Villefort. «Porta via il cadavere di mio figlio! Dove lo portate? Oh, maledizione, sciagura! La morte su di te!» E fece per gettarsi dietro a Montecristo, ma come in sogno sentì i piedi radicati al suolo, gli occhi gli si dilatarono fino al punto di uscire dalle orbite, le sue dita ricurve sulla carne del petto vi si conficcarono finché il sangue gli arrossò le unghie, le vene delle tempie si gonfiarono contro la volta troppo stretta del cranio e il suo cervello fu sommerso da un diluvio di fuoco. Quella immobilità durò molti minuti, fino a che si compì uno stravolgimento della sua ragione. Allora mandò un grido seguito da un lungo scoppio di risa e si precipitò per le scale. Un quarto d'ora dopo si riaprì la camera di Valentina e ricomparve il conte di Montecristo. Teneva fra le braccia il bambino, al quale nessun soccorso aveva potuto rendere la vita. Mise un ginocchio a terra e lo depose religiosamente vicino a sua madre, con la testa appoggiata sul petto di lei. Quindi, rialzatosi, uscì e incontrando un domestico sulla scala. «Dov'è il signor di Villefort?» domandò. Il domestico, senza parlare, gli additò l'uscita verso il giardino. Montecristo scese la scalinata, corse in giardino e vide, attorniato dai suoi servitori, Villefort, che con una vanga in mano scavava rabbiosamente la terra. «Qui non c'è!» diceva. «E nemmeno qui!» e scavava un poco più lontano. Montecristo gli si avvicinò e gli disse sottovoce, con tono quasi umile: «Signore, voi avete perduto un figlio, ma...» Villefort lo interruppe. Non aveva né visto né udito. «Oh, lo ritroverò!» disse. «Non potete dirmi che non c'è più! Lo ritroverò! Dovessi cercarlo fino al giorno del giudizio!» Montecristo indietreggiò sconvolto. «Dio, è pazzo!» E come avesse temuto che i muri della casa maledetta crollassero su di lui, corse verso la strada, dubitando per la prima volta del diritto che si era arrogato di fare ciò che aveva fatto. La carrozza si era mossa sollevando una nuvola di polvere mista a scintille. Maximilien si accomodò in un angolo, senza dire una sola parola. «Morrel», disse il conte di Montecristo, «vi siete pentito di avermi seguito?» «No, signore, ma di lasciare Parigi, dove riposa Valentine». «Se avessi creduto che la felicità vi aspettava a Parigi, Morrel, vi ci avrei lasciato». Il viaggio proseguì con quella inaspettata rapidità che era una delle prerogative del conte, e l'indomani mattina arrivarono a Chalon, dove li aspettava il battello a vapore del conte. Il battello procedeva veloce sulle onde, fendendo con le due ruote l'acqua come le ali di un uccello viaggiatore. Ben presto apparve ai loro occhi Marsiglia, bianca, tiepida e viva. Morrel e Montecristo si fermarono di comune accordo sulla Canebière. Una nave partiva per Algeri. I bagagli, le merci, i passeggeri ammassati sul ponte, la folla dei parenti e amici che si dicevano addio, gridavano e piangevano, spettacolo sempre commovente, anche per quelli che vi assistono ogni giorno, non poterono distrarre Maximilien da un'idea che l'aveva afferrato dal momento in cui aveva messo piedi sui larghi blocchi di granito dello scalo. «Guardate», disse stringendo il braccio di Montecristo, «ecco il luogo dove si fermò mio padre quando il faraone entrò in porto. Qui il brav'uomo, che voi salvaste dalla morte e dal disonore, si gettò fra le mie braccia. Sento ancora il tepore delle sue lacrime sul mio viso. E non piangeva lui solo. Piangevano anche molti altri, vedendoci». Montecristo sorrise. «Io ero là», disse, mostrando a Morrel l'angolo di una strada. Nella direzione indicata dal conte si udì un gemito doloroso e si vide una donna che faceva segni a un passeggero della nave in partenza. Quella donna era velata. Montecristo la seguì con gli occhi, con una emozione di cui Morrel non si avvide fino a quando il suo sguardo restò fissato sul bastimento che salpava. «Oh mio Dio!» gridò Morrel. «Quel giovane che saluta, con il cappello, quel giovane in uniforme, è Albert di Morcerf!» «Sì», disse Montecristo. «L'ho riconosciuto anch'io». «In che modo, se guardate dalla parte opposta?» Il conte sorrise, come faceva quando preferiva non rispondere. «Amico caro», disse a Maximilien, «non avete qualcosa da fare in questa città?» «Ho da piangere sulla tomba di mio padre», rispose con tristezza Morrel. «Sta bene, andate ad aspettarmi laggiù, vi raggiungerò». «Mi lasciate?» «Sì, io pure ho una pietosa visita da fare». Montecristo si incamminò verso i viali di Meillon, alla casetta che era stata abitata da suo padre. Ma mentre il vecchio aveva occupato solo la soffitta, il conte aveva messo a disposizione di Mercedes l'intera casa. All'estremità di un vialetto lastricato di mattoni si apriva, ricco di aria, di sole e di luce, un piccolo giardino. Dalla soglia della porta verso la strada si vedevano i primi alberi di quel giardino. Montecristo udì alcuni sospiri simili a dei singhiozzi. Quei sospiri guidarono il suo sguardo nella direzione da cui provenivano, e sotto un pergolato di gelsomini della Virginia, dalle foglie fitte e dai lunghi fiori color porpora, vide Mercedes, curva e piangente. Montecristo fece qualche passo in avanti e la sabbia scricchiolò sotto i piedi. Mercedes rialzò la testa e mandò un grido di spavento vedendosi un uomo davanti. «Signora», disse il conte, «non è più in mio potere portarvi la felicità, ma vi offro consolazione. Degnatevi di accettarla come amico». «Io sono infatti molto disgraziata», disse Mercedes, «sola al mondo. Non avevo che mio figlio e mi ha lasciata». «E ha fatto bene, signora», replicò il conte. «Ha dato prova di nobiltà d'animo. Ha capito che ogni uomo deve un tributo alla patria, gli uni con il loro ingegno, gli altri con la loro attività, questi con le loro veglie, quelli con il loro sangue. Restando con voi avrebbe consumato vicino a voi la sua vita divenuta inutile. Non avrebbe potuto capire i vostri dolori. Sarebbe divenuto odioso a se stesso per la sua impotenza. Invece diventerà grande e forte, lottando contro le avversità che muterà in fortuna. Lasciate che ricostituisca il vostro avvenire. Anzi, quello di entrambi, signora. Oso promettervi che quell'avvenire si trova in mani sicure. Ah, disse la povera donna scuotendo tristemente la testa, questa fortuna di cui parlate e che dal fondo del cuore prego Dio gli venga concessa, io non la godrò. Tante cose si sono infrante dentro di me, intorno a me, che mi sento vicina alla tomba. Avete fatto bene, signor Conte, a farmi tornare nel luogo dove sono stata tanto felice. Si deve morire là dove si è stati felici. Mercedes si sciolse in lacrime. Il cuore della donna si spezzava nello scontro con i ricordi. Montecristo le baciò rispettosamente la mano, ma lei sentì che quel bacio era senza ardore, come se l'avesse deposto sulla mano della statua di una santa. «Vi sono», continuò, «esistenze predestinate alle quali il primo errore spezza tutto l'avvenire. Io vi credevo morto. Avrei dovuto morire. A cosa mi è servito portare eternamente il lutto di voi nel mio cuore? A fare di una donna di 39 anni una donna di 50? Ecco tutto. A cosa serve che, unica fra tutti, vi abbia riconosciuto? Ho soltanto salvato mio figlio. Non dovevo ugualmente salvare l'uomo che, per quanto colpevole, avevo accettato per marito. L'ho lasciato morire. Che dico, mio Dio? Ho contribuito alla sua morte con la mia vile insensibilità, con il mio disprezzo, non ricordandomi o non volendo ricordarmi, che si fece spergiuro e traditore per me. A che serve, infine, che io abbia accompagnato mio figlio fin qui, se qui lo abbandono, se da qui lo lascio partire solo, se qui lo getto su quella infuocata terra d'Africa? Io sono stata vile, ve lo ripeto. Ho rinnegato il mio amore. E come tutti i rinnegati, porto disgrazia a tutto quanto mi circonda. No, Mercedes, disse Montecristo. No. Abbiate una maggiore stima di voi stessa. Voi siete una nobile e santa donna. Mi avete disarmato con il vostro dolore, ma dietro a me, invisibile, sconosciuto, irritato, vi era Dio. di cui non ero che lo strumento, e che non ha voluto arrestare il fulmine che avevo lanciato. Esaminate il passato, esaminate il presente, cercate di indovinare l'avvenire, e poi vedrete se non ho ragione di credermi uno strumento del Signore. Le più spaventose disgrazie, le più crudeli sofferenze, l'abbandono di tutti quelli che mi amavano, la persecuzione di coloro che non mi conoscevano. Ecco, la prima parte della mia vita. Quindi, d'un tratto, dopo la prigionia, la solitudine, la miseria, ecco l'aria, la libertà, una ricchezza così splendida, prodigiosa, smisurata, per cui, a meno di essere cieco, ho pensato che Dio me la inviava con grandi progetti. Da quel momento quella ricchezza mi è sembrata un sacerdozio. Da allora, non più un pensiero in me per questa vita di cui voi, povera donna, avete qualche volta assaporato la dolcezza, non più un'ora di calma. Mi sono sentito come una nube di fuoco spinta dal cielo per bruciare le città maledette. Allora mi sono buttato sulla via che mi era aperta. Ho superato gli spazi. Ho toccato la meta, portando guai a coloro che hanno avuto la sventura di trovarsi sul mio cammino. Basta, lo interruppe Mercedes. Colei che ha saputo riconoscervi, colei che ha saputo comprendervi, colei che, se l'aveste incontrata sulla vostra strada, avreste distrutto come vetro. Lei dovette tuttavia ammirarvi, Edmond. Così come c'è un abisso fra me e il passato, ce n'è un altro fra voi e gli uomini, e la mia più dolorosa tortura, ve lo dirò, è fare dei confronti, poiché nulla trovo al mondo che vi eguagli, nulla che vi assomigli. Ora ditemi addio, Edmond, e separiamoci. Monte Cristo impallidì leggermente e abbassò la testa oppressa dalla veemenza di quel dolore. Non volete rivedermi? Disse tendendole la mano. Al contrario, vi rivedrò, replicò Mercedes, mostrandogli il cielo con solennità. Ve lo dico per provarvi che spero ancora. E dopo aver toccato con mano tremante quella del conte, Mercedes salì rapidamente le scale e sparì dalla sua vista. Montecristo uscì con passo lento da quella casa e si diresse verso il porto. Ma Mercedes non lo vide allontanarsi. Quantunque fosse alla finestra della piccola camera del padre di Dantès, i suoi occhi cercavano in lontananza il bastimento che trasportava suo figlio verso il vasto mare. Tuttavia, le sue labbra, quasi loro malgrado, mormoravano sommessamente: Edmond, Edmond, Edmond. Thank you.